falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi, falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi, falso VIP, che balli con le trip. Ehi, falso VIP, ehi, falso VIP. Ehi, falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi, falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi, falso VIP, che balli con le trip. Ehi, falso VIP, ehi, falso VIP. Ciao falso VIP che ti presenti con i tuoi capelli gelati e ti esponi con falsi modi garbati, mentre cerchi di fottere le donne agli uomini sposati usando frasi con termini sgrammaticati. Dei falsi VIP io sono loro amico, non mi importa se pensano che il mio stile è antico. Esco con loro per andare al bar per vedere come si atteggiano da stare e fare il figo nelle loro car. Con la musica pompata a tanti decibel, arrivati in un locale iniziamo a ballare. Non mi importa quanto devo consumare, perché i miei cari amici falsi VIP fanno a gara per chi deve pagare. Questi falsi VIP hanno tante donne attorno, così scollate e amatoriale si potrebbe girare un porno. Ballano intorno a lui finché non diventa giorno, appena tornano a casa crollano in soggiorno. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con le trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Falso VIP, che balli con noi trip. Ehi falso VIP. I falsi VIP si vestono tutti similari, pantaloni stretti con camicia o abiti strani. Fanno credere che acquistano in negozi cari, ma in giro al mercato li trovi quasi tutti uguali. Oh no, mi è beccato. Sull'etichetta c'è scritto Dolce Caballa, la marca cambia quando lui balla e la gente si sballa, ma alla fine la presa per il culo viene a galla. Quando la musica si impalla e lo lasciano solo quando vedono che è una balla. Le ragazzette si alzano alle 7, vanno al mercato col fucile puntato, chiedono al mercante l'occhiale più falso griffato per poi sfoggiarlo la sera al raduno VIP. Indovina quanto l'ho pagato. Le false tipe VIP annunciano il lutto di stato, se si rompono un'unghia o si lasciano col fidanzato, e si sentono fighe se hanno il capello colorato, e guai se le tocchi se l'hanno già piastrato. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con le trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con le trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. I medesimi stanno al centro dell'attenzione, sono talmente stupidi che cadono in tentazione. Quando passa un trans vanno in confusione e si portano a terra dall'emozione. Si sentono ubriachi con il Bacardi, ne approfittano con gli amici a fare i bastardi. Si sfidano con gli occhi se li guardi e si vantano perché tornano a casa tardi. Se si trovano nel mezzo di una rissa sono capaci a insultare pure in massa. Se li prendi soli si pisciano dalla strizza e il giorno dopo ti offrono anche una pizza. Nella loro cricca il vaso trabocca. Si litiga sempre con la parola frocio in bocca. C'è sempre con loro uno stronzo che mi blocca, ma che me ne frega, io aspetto stasera così si sgrocca. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con le trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con le trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. Ehi falso VIP, tu conosci il tuo beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con noi trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. Ehi falso VIP, tu conosci sto beat. Ehi falso VIP, dove compri i tuoi jeans? Ehi falso VIP, che balli con noi trip. Ehi falso VIP, ehi falso VIP. Ehi falso VIP, cos'è quel cartone in testa? Avevano finito gli abiti al mercato? Ah, ho capito, è una nuova moda. Beh, ti consiglio di metterci anche un fiorellino lì sopra. Ciao. Dannato c'è il rap e le sue canzoni del cazzo.